Anche nei miei momenti più bui sento le parole ribollire dentro di me. E io devo buttarle giù quelle parole se non voglio essere sopraffatto da qualcosa di peggiore della morte. Le parole non sono tanto cose preziose quanto piuttosto cose necessarie. Eppure quando comincio a dubitare della mia capacità di lavorare con le parole, vado a leggermi un altro scrittore. E allora so che non ho niente di cui preoccupare. Se, ok, M3 2012 Milano, yeah, lettere dall'inferno, EP. Volevate sapere perché mi chiamo così? Bene, adesso ve lo spiego. Se, ma aprite bene le orecchie, New Rap, perché è veloce. Senti, se. Ciao a tutti, sono Leo per i nemici e me tre. Ciao. E con nemici intendo quelli come te. Se giri l'M del mio logo tieni il 3. Se inverto il talento tengo quelli come te. Nuovo rap, nuovo step, M3 is on the track. E no canto in playback, rivedi la tua vita in flashback. This is a new saga of Italian rap. E doppia ME, 3 volte nuovo rap. M3 come la linea gialla della metropolitana. E non è una balla, no, che la prendo tutti i giorni per andare al lavoro. E non perché I love oro, ma per finanziare questa bomba che vi butto in faccia. Spero che vi piaccia, sta carta straccia. No, che dure questa traccia, il mio flow ti apre la faccia. M3, classificazione stellare, il mio nome da ricordare. Sì. Questa roba ti prende male, non è normale, no, è viscerale. Yes. M3, la canzone di Narcos, queste rime sono piene di pathos. E tra Eros e Thanatos, qui prevale sempre Thanatos. Vivo tra l'ombra e l'anima, tra schivo ogni fottuta lacrima. Liberazione e dolore, M3, il flow non muore. Vivo tra l'ombra e l'anima, tra schivo ogni fottuta lacrima. Liberazione e dolore, M3, il flow non muore. Non posso lasciare il rap in mano a sti buffoni, no. Sapete già di chi parlo, quindi non faccio nomi. Inizia l'era del nuovo rap, sì. Sul new era per M3, ok, l'iniziale del cognome, 3 le lettere nel mio nome, che per chi non lo sapesse vuol dire leone. Io re di sta foresta, tu il primo coglione. Io sono metallaro che si è messo a fare rap. Sono un rapper che sa cantare anche il death metal. Sono la chitarra e la batteria, sogno di bestemmiare in growl su Radio Maria. Io su BPM 90, tu tutto il giorno 90. Io nato fine 80, tu mi fai bene anche tanta. Fai un blowjob, il mio flow do. Questo new rap non dalle parti niente tocco. Spingo questa merda come uno sterco orario, sì. Scrivo testi a qualsiasi orario, sì. E se vuoi sfidarmi procurati le armi. Vorresti emanciparmi, ti puoi solo inginocchiarti. Trasformo dammi in rima, schizzo verso la cima. Niente più come prima, guadagno la tua stima. Incido rime che vivranno nel tempo come bronzi di Riace, argomenti che non danno pa. Vivo tra l'ombra e l'anima, tra schivo ogni fottuta lacrima. Liberazione e dolore, M3, il flow non muore. Vivo tra l'ombra e l'anima, tra schivo ogni fottuta lacrima. Liberazione e dolore, M3, il flow non muore. Sono il prodotto di una società decadente. Sono la voce di chi non ha mai avuto niente. Sono la rabbia che vi tenete dentro. Prendo questo beat e lo sventro. E a voi per venisse poi buonisti, moralisti, falsi ipocriti e due facce. Coprite le orecchie ai vostri figli se dico parolacce. Coprite loro gli occhi per non far vedere se facce. Vi mando tutti a fare in culo i miei medi come frecce. Se non avete le palle per educare i vostri figli, compratevi un cane, non cercate affari. Le tre cose a cui penso sempre iniziano tutte con la M. Uno, è la mia ossessione e per non pensarci penso a questa. Due, è la mia vita e la faccio per uscire da questa merda che non sopporto più, questa vita di merda che spera che io perda. Vivo tra l'ombra e l'anima, tra schivo ogni fottuta lacrima. Libera